Vero che non siamo a tempo noi, eh? Cioè lui registra il pacchetto però a tempo, noi non eravamo a tempo. Scusa, facciamo così. Sì, siamo a tempo, però siamo praticamente sfasati di un giro. Quindi non ho idea di come si può ovviare questa cosa. Cioè, siamo sfasati di 4 misure, praticamente. Quindi forse se io ti dico... Addirittura. Quindi se forse io ti dico... Cioè, se noi le contassimo le battute... E attaccassimo insieme, forse potremmo non andare insieme. 1, 2, 4. Inserito quel coglione, non ho capito nulla. Allora, Conta 4 e io mi azzicco con un'ottava altissima e tu con un'ottava bassa. no, dovremmo contare insieme 4. Come cazzo facciamo?